con una canzone, con un film e con un libro. Alberto, cerchiamo di tradurre il messaggio di oggi, l'esercizio di oggi. Tutto quanto è necessario, ogni cosa è il suo contrario. Sì, è una frase che ho trovato in una filastrocca dei miei bambini e che mi ha molto molto colpito. In realtà questa filastrocca si riferiva a una situazione molto faticosa della vita all'interno del libro in cui veniva inserita, e fondamentalmente invitava a esplorare l'altro lato di tutto ciò che ci succede, per cui non necessariamente tutto quello che ci aspettiamo succederà, ma non possiamo evitare quello anche che di più faticoso magari o di più inaspettato ci succede, ma forse l'atteggiamento giusto è andare a vedere che cosa ha da insegnarci o che opportunità si nasconde anche dentro ad una cosa che invece ci sembra un peso incredibile. Allora Alberto, io direi che è tempo di iniziare così a metterci al lavoro ascoltando la canzone della... Sono sempre donne quelle che tu segnali, sempre cantanti. Abbiamo scelto cinque voci femminili. Cinque voci femminili, e su questo bisognerebbe interrogarsi, ma partiamo. Oh, you can't say nothing to the pouring rain, and you can't say nothing till there's hope again. Say, oh my baby, you must never change. Oh, we're only the ones we love. I stood stolen by a pauper's heart, as I've stood stolen where the aching starts. But the way you watched, it's a life apart. For we're only the ones we love. Only. Voglio sapere tutto di lei. Allora, lei è Tanita Tikaram, il pezzo è Only the Ones We Love ed è una voce che ha dentro tutti i continenti del mondo, perché lei è di origine indiane, malesi, suo papà era un ufficiale dell'esercito britannico, è nata in Germania, si è poi trasferita in Gran Bretagna e alla fine degli anni Ottanta ha avuto di nuovo, quando era giovanissima, con un CD molto molto particolare, uno straordinario successo, poi è praticamente scomparsa nonostante abbia scritto delle canzoni meravigliose, tra cui questa. Perché abbiamo scelto questa voce per il messaggio di oggi? Intanto perché io la trovo una voce che ha dentro davvero un po' tutto. Una musicalità eccezionale. Ha dei timbri poi che, per esempio, la prima volta che l'ascolti rimani incerto nel capire è maschile o femminile, ha una profondità, uno spessore che è molto molto speciale. E poi in questo testo in particolare dice: può succedere di tutto nella nostra vita, ma se noi siamo insieme ad affrontarlo, qualsiasi cosa probabilmente diventa molto più sopportabile. Per cui tutto quanto è necessario, ogni cosa al suo contrario, e se noi siamo insieme probabilmente tutto acquista comunque una nuova possibilità. Da qua facciamo un salto. Facciamo un salto. Tu hai scelto un film, tra l'altro molto molto bello, molti di noi l'avranno visto, con una splendida Catherine Deneuve. Questo è un film che mi hai consigliato tu, sì, tra l'altro. E poi con Fabrice Luchini, che abbiamo visto anche nelle Donne del Sesto Piano, questo attore francese, oltre a un superlativo Gérard Depardieu. Ma se tu hai notato l'eleganza di Catherine Deneuve, sempre vestita Saint Laurent, sempre perfetta, sempre bella. E la ricchezza degli oggetti negli arredi, nella casa. Andiamocene a sentire un pezzettino. Siamo nel 1977. Il posto delle donne è ai fornelli, non è al lavoro. Ma al giorno d'oggi vogliono essere trattate alla pari. Cucù. È andata bene ieri sera con l'acquirente tedesco? Ah, non rompere, Suzanne. Se vuoi il mio parere. Il tuo parere? Quale parere? Tu hai un parere? Va bene. Quello che ti chiedo è di condividere il mio, se no tutto il resto sono parole ed energie sprecate. Dai, zitta un po'. Ma no, povera mamma, non capisci niente. Bisogna pensare al futuro, a modernizzarsi. Citami altre donne viziate come te dopo 30 anni di matrimonio. Oh, se parliamo di elettrodomestici, sono una reginetta. Ah, vedi, sei appagata, sei costretta ad ammetterlo. Buongiorno, Nadege. Potish, la bella statuina, un film, Alberto, che tu hai scelto e devo dire hai fatto benissimo, perché è proprio un film dove tutto si ribalta, ci sono nuovi ruoli, colpi di scena. Ogni cosa diventa il suo contrario. Direi che la cosa magnifica è proprio quella che Suzanne, pensata una sorta di soprammobile tra i tanti soprammobili di questa famiglia borghese, in realtà nasconde dentro. È una vera donna! Altro che una vera donna, e di fronte a una crisi enorme in cui sta versando l'azienda dopo una specie di rapimento del marito, lei prende in mano le redini di tutto e in realtà dimostra qual è realmente il suo valore. Non vorrei essere di parte, ma lo fa con grande intelligenza, creatività, rompe con tutti gli schemi, è proprio la forza vitale. Sì, è davvero, insomma, permette in qualche modo di tirare fuori questo messaggio. Cioè, probabilmente ognuno di noi ha dentro delle meraviglie, ha dentro delle competenze, ha dentro delle cose che sono il contrario di quello che eventualmente mostra nella quotidianità e nella normalità. C'è bisogno a volte di un'occasione. Di uno scossone. Le occasioni a volte arrivano, le occasioni a volte invece bisogna andarsene a cercare. C'è da dire che però il vantaggio, il valore è che lei non si è tirata indietro, invece tante volte noi ci tiriamo indietro. Ed è, direi che quello che sottolinei tu è proprio un po' il messaggio che vogliamo dare oggi. Cioè dovete un po' andare anche incontro al cambiamento del destino, laddove quello che sta succedendo adesso non vi soddisfa più di tanto. Senza essere incoscienti, naturalmente. Ma, no, certo, ma con una buona, direi, autoconoscenza. In qualche modo, quando Suzanne fa la scelta di prendere in mano le redini, in fin dei conti lei sa esattamente chi è, sa che cosa può succedere. Come lo sappiamo generalmente noi donne. E devo dire che Alberto, per la scelta di questo film, ti do 10. Mi promuove. Vediamo come te la cavi con il libro. Andiamo. Scesero dall'auto. Era lui. Ancora altissimo, magro, con le spalle larghe, le gambe e le braccia lunghe. Aprì il bagagliaio e tirò fuori un ombrellone, una borsa frigorifero e due sedie a sdraio. Lei, invece, non l'avrei riconosciuta. Il suo corpo sembrava completamente alterato, camminava senza agilità, era ingrassata e deforme. Indossava un ampio prendisole rosa aperto sui lati, lui dei pantaloni corti, una camicia abbondante e dei sandali. La ragazza portava una maglietta sopra il costume da bagno, un cappellino, l'asciugamano in spalla. Era giovane, doveva avere al massimo 30 anni. Non era né mora né bionda, piuttosto castana, nonostante una tinta rossa le coprisse parte dei capelli. Aveva un tatuaggio nero e rosso sulla caviglia, che sembrava una farfalla, e un altro sulla schiena, dei caratteri cinesi o giapponesi, in nero. Una vittima perfetta per i Christensen. Potevano averla conosciuta in spiaggia e aver messo gli occhi su di lei per succhiarle un po' di sangue fresco, per succhiarle l'energia, per contagiarsi con la sua freschezza. La gente in fondo cambia poco. E per Frederick ogni suo simile era un essere di cui poteva approfittare per rubargli qualcosa. Non si cambia in 2 giorni e nemmeno in 40 anni. Io, nel profondo, non ero cambiato. Cosa poteva sapere quella ragazzina di tutto questo? Come avrebbe potuto intravedere il male in 2 anziani che si prendevano cura di lei? Sembravano molto premurosi e gentili con quella ragazza che non era della loro stessa razza ariana. Vederli fare del bene metteva paura. Agivano come se non fossero mai stati davvero coscienti di aver fatto del male. Il profumo delle foglie di limone è un libro che sta avendo uno straordinario successo, tra l'altro. Sì, e che ha questo titolo davvero affascinante perché evoca immagini, profumi meravigliosi, in quanto ambientato in Spagna, in Costa Blanca, anche se il titolo originale, Lo che esconde tuo nombre, ciò che nasconde il tuo nome, in realtà è molto più vicino poi a quello alla che realmente succede ai personaggi. In questo romanzo quello che a me è piaciuto molto è che arriva una donna davvero confusa, che non sa che cosa che direzione prendere nella vita. È incinta e non sa se mettersi insieme al compagno che l'ha resa tale, ha litigato con i genitori, è persa. Insomma, uno sfracello. È uno sfracello e fondamentalmente viene sostenuta e assistita da due anziani a prima vista meravigliosi, gentilissimi, che la fanno entrare in quella che è la cornice di un mondo di favola, una villa meravigliosa, le propongono un lavoro, le danno all'apparenza tutto quello che lei non avrebbe neanche mai sognato di poter trovare, ma questo in realtà è solo l'inizio di un percorso in un buio che lei non sa ancora di che cosa è fatto e rispetto alla quale verrà aiutato da un altro personaggio. Non diciamo oltre, diciamo solo che torniamo insieme la prossima settimana per la nostra ultima puntata di Arte Terapia. Intanto, se volete scriverci, il nostro profilo Facebook è a vostra disposizione. Vi ringrazio, buona giornata e buon lavoro. Lavoriamo anche sugli spunti che ci ha dato Alberto Pellai. Vi aspetto come sempre domani dopo le 11.